Oggi, 4 dicembre, Santa Barbara, il ministro per la funzione pubblica Renato Brunetta ha osservato un minuto di silenzio. Vi è mancato qualcosa? E domani cosa dirà il ministro Brunetta? Quando vo per la città, tutti esclamano guarda là, di quel corazziere se ne vede la metà.